senti, ho dimenticato di dirti una cosa. Oh! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Parenzo, curalo, curalo Parenzo. Insomma, curatevi uno con l'altro che avete bisogno di cure voi due. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao simpatici asinoni, sempre asini ma simpaticoni. Dal mondo dell'immigrazione, popolo della radio, i tuoi amati mediatori culturali, Parenzo, c'è una notizia che viene, credo, da Roma, vicino Castelnuovo di Porto, dove c'è un centro di raccolta degli immigrati, dove un signor immigrato ha accoltellato una mediatrice culturale fuori dal centro di accoglienza. Ha accoltellato una mediatrice culturale. Prima minacciata con un coltello e poi ferita al collo. Ovviamente ha rubato denaro e telefonino. In Sardegna, cosa accade in Sardegna? Notizia già di qualche giorno fa, ma che è giusto in qualche modo riportare a galla qui all'attenzione del popolo della zanzara, del popolo della radio. Gli immigrati protestano perché sono destinati a un agriturismo che è troppo lontano dalla costa, diciamo, è troppo isolato. È un paese da pazzi dove non si può nemmeno dire, certo forse Salvini ha esagerato dicendo che quelli malati di scabbia, ci sono pare centinaia di casi a Milano, alla stazione centrale di Milano, che è diventata una sorta di bivacco, non degno di un paese civile, diciamo la verità, non degno, comunque la si pensi sull'immigrazione e in qualsiasi modo uno voglia fronteggiare questa emergenza dell'immigrazione, il fatto che le stazioni, Tiburtina a Roma, la stazione centrale dove la gente caga per strada, la stazione centrale a Milano, e in tutti questi posti non è possibile vedere scene come quelle che vediamo nei telegiornali, come ho visto io passando per la stazione centrale a Milano. Non è possibile dire in questo paese che, insomma, è un problema se qualcuno ha la scabbia. Poi Salvini ci ha messo del suo, perché ha detto, beh, allora vadano ad abbracciare la Boldrini e Renzi, questi immigrati malati di scabbia. Ma a te non fa paura la scabbia, Parenzo? Non ho capito, non ti fa paura la... Beh no, sì, ma certo, a te che te frega. A parte che la scabbia per fortuna si cura, cioè era una malattia qui nell'Occidente ricco. Ma non è bello che arrivino persone malate di scabbia? È bello o no? Certamente non è bello, meno male. Lo stesso Salvini è quello che si lamentava tempo fa perché gli immigrati usavano il Servizio Sanitario Nazionale. Ma che c'entra, scusa? Quindi certo, mettiamoci d'accordo. Cioè, ma che vuol dire? Ma sono due cose diverse. No, è la stessa cosa in realtà. Vabbè, sentiamo questo scontro tra Salvini e lo scrittore Scurati questa mattina. Siamo passati da una condizione in cui la scabbia l'avevamo noi a una condizione di assoluto privilegio. Cosa significa questo? Allora ripigliamoci non la significa... scabbia. Non significa, buono, taci, allora, fammi allora parlare. Ripigliamoci taci, la scabbia. Taci, fammi parlare. Fenomeno. Cosa significa questo? Pigliatela che tu la scabbia se ti fa piacere. Della storia. E poi scrivici un bel dobbiamo libro sulla bellezza della scabbia. Dobbiamo recuperare il senso della storia. Dobbiamo recuperare il senso della storia. Non possiamo vivere soltanto nella cronaca. Dobbiamo recuperare il senso della storia. Io la capisco la posizione di Scurati, che la butta in filosofia, no? Gli immigrati, siamo stati anche noi immigrati, l'umanità, eccetera. Però la soluzione qual è? Cioè, quali sono le soluzioni? Va benissimo dire taci, l'immigrazione, eccetera. Però poi quale soluzione c'è secondo il signor Scurati? Lo scrittore, bravissimo, per carità, Scurati. Non lo so, magari quella di Salvini è sbagliata, Cioè, magari è una ricetta sbagliata quella di cercare in tutti i modi di fermare l'arrivo. Magari è sbagliata, non dico che è quella giusta. Però... Ancora Salvini, che era anche alla gabbia, era anche all'area che tira, solito giro, contro Mughini, sempre sull'immigrazione. 1940 molte nazioni al mondo rifiutavano gli ebrei, anche gli Stati Uniti ne rifiutarono una bella porzione. Dico, scusa Salvini, ti ricordo cose che sono per te impensabili. Allora, per lasciare perdere... Immagino che Mughini sarà diventato il nuovo idolo di Parenzo. No, lo so, io ho sempre detto che su questo dice cose. Risposta di Salvini: cosa cazzo c'entrano gli ebrei? Io devo dire che, caro Giampiero, sono d'accordo con Salvini. Quando uno dice cosa sono due cose diverse gli ebrei, no, amico mio, amico Mughini, sono due cose diverse. Il rifiuto degli ebrei e cercare di regolare la questione degli immigrati sono un pochino diverse. Allora, il Partito Democratico ha già deciso di arrestare Azzollini. Ora io dico, Azzollini sarà sicuramente una persona terribile, ha fatto fallire quell'istituto di suore, un imbroglione, non lo so, lo dimostreranno i magistrati. Ma, signor Orfini mio, non hai visto le carte? Perché non puoi averle viste, non sono manco arrivate alla commissione che dovrà decidere se Azzollini... Allora, basta dire, non serve più una mazza il passaggio in Parlamento, se uno chiede l'arresto, come secondo me dovrebbe avvenire, anche un parlamentare va arrestato subito. Allora io sono d'accordo. Eliminiamo l'immunità parlamentare per quello che resta, cioè per l'arresto. Eliminiamo anche quella. Altrimenti non è che puoi dire per noi va arrestato. E allora a che serve sto passaggio di carte, soldi sprecati, le carte che dalla procura devono arrivare in commissione e quelli del Parlamento che dicono decideremo entro l'estate? Non serve a nulla se già hai deciso che sarà arrestato. Ci avete la maggioranza? Mi pare abbastanza evidente, lo abbiamo già detto, io credo che di fronte a una richiesta del genere si devono valutare le carte, ma mi pare che sia inevitabile votare a favore dell'arresto, evidentemente. Cinque Stelle in Parlamento, mi sembra che si chiami D'Ambrosio come il giudice, no? Come il magistrato D'Ambrosio, quello di Mani Pulite. Arrestiamo Azzolini, altrimenti quello... Intervengo oggi per chiedere a quest'Aula, per chiedere alla maggioranza, per chiedere a lei di non azzardarvi minimamente a pensare ancora una volta di salvare Azzolini dalla giustizia, altrimenti, e qui concludo Presidente, mi dia questa licenza con questa frase, come dicono le intercettazioni di oggi del Fatto Quotidiano, ha ragione Azzolini quando si rivolge alle due suore che sono state anch'esse arrestate e dice qui comando io e se non si fa come dico io vi piscio in bocca, vergogna. Grazie. Cioè, arrestiamolo, altrimenti quello ci piscia in bocca. Allora, a proposito di Mafia Capitale e di tutto quello che sta uscendo, Vittorio Zucconi, se non sbaglio, Vittorio Zucconi la pensa come Giuliano Ferrara. Cioè, non si può parlare di mafia, ma come di stracciaculi. La cosa più deprimente nel leggere le carte di Mafia Capitale 1 e 2 è lo stracciaculismo di questo mondo. Cioè parliamo veramente di miserabili, gente che vende la propria funzione pubblica per 1000 euro al mese, che prende un euro a testa per il cara. Questo è veramente, c'è quest'aria di andamose tutti a fare una pizza, cioè tutti a spese nostre naturalmente, quindi è umiliante anche nel meccanismo. Non è proprio detto che non c'è la mafia, comunque c'è quest'aria, come dire, di, no, di strafottersene dei soldi pubblici, perché tutto quello di cui sentiamo parlare in questi giorni, amici miei, popolo della radio, è proprio questo. Cioè, è tutto denaro nostro, cioè tutto quello che vediamo, no, tutte le cifre, piccole o grandi, c'è chi dice troppo piccole, c'è chi dice che comunque sono cifre ingenti, sono soldi nostri che ogni volta vengono dati per ripianare i debiti di Roma, dati per non spenderli nei campi rom, per la degli immigrati. Bravo. Dunque c'è gente che ci lucra però anche sull'arrivo degli immigrati e che non fa nulla per impedirlo, gente che mantiene, certo, che mantiene fino all'eternità i campi rom e che ha intenzione di mantenerli fino all'eternità perché ci guadagna. La situazione è questa. Esatto. E in tutto questo esce fuori un'idea. Ferrero, e sto parlando di Massimo Ferrero, il presidente della Sampdoria, sindaco di Roma, non è una cattiva idea, ti dico, con quello che è successo va bene anche Ferrero. Scherzando, ha detto che si candida a sindaco di Roma, ci sta pensando davvero? Non sono un politico, non ho queste ambizioni, ma se qualcuno me lo chiede e marino a casa ci farei un pensierino. Beh, da Marino a Ferrero sarebbe il top, ma abbiamo con noi una persona che vive a Roma. Marina Ripa di Meana, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, con poca come, voce. Come stai, come stai? Sto male perché sto urlando ai 4:20 che il sindaco Marino se ne deve andare, l'ho talmente l'ho urlato. Ma perché se ne deve andare secondo te, spiegami? Perché? Perché? Cioè, mi devi chiedere il perché? Perché una città ridotta a una cloaca, a parte la, tutta la, tutto quello che abbiamo sentito, intercettazioni, di cose che avete parlato finora. La cloaca. Non c'entra Marino, però. Come? Marino che cosa? Come non c'entra? Non c'entra, Marino non c'entra. Succedono intorno a lui tutte queste cose, lui non sa nulla? Lui non sa nulla? Lui non fa niente. No, cioè risulta proprio, dalle intercettazioni risulta esattamente il contrario. Cioè, no, veramente Marino? Non risulta il contrario, cioè, lascia perdere che quelli... Risulta che è in adesso, mezzo... Adesso lasciamo perdere le intercettazioni, vogliamo dire come, perché ne avete parlato abbastanza, sì, sì. E perché, vabbè, perché... Vogliamo dire com'è ridotta questa città? Com'è ridotta? Dimmelo tu. Massima. Addirittura. Neanche Bombay, neanche l'ultima, non so, non è la cloaca massima. Ma tu ci vai qualche volta alla Rom poi? I Rom, le buche, no, esci di casa e come minimo ti pigli una storta se ancora riesci a camminare, se non ti rompi una gamba. La sporcizia, il traffico, lo tutto questo è arrivato a degli immondizi. Però scusa, dove stai tu? Al quartiere Prati, al quartiere Chic, eccetera. Ma non succede niente al quartiere tuo. Al quartiere mio ci sono l'immondizia che esce dai cassettoni. Ma adesso pure Parenzo. L'immondizia che no, io non porto più i cani fuori perché è veramente impressionante. È impressionante la città. Scusa, in che senso non porti più i cani fuori? Scusami. No, i cani li lascio, non li porto fuori perché. Cioè, non riesci a portare più fuori i cani perché dice che c'è troppa immondizia. Perché i cani vengono contaminati da topi, da sporcizia, belli. Vabbè, insomma. Ma quanti cani c'hai? Questo sarebbe il meno. Cioè, è che non si può camminare per le strade di Roma se vai a piedi. Ma quanti cani c'hai? Non ho capito. Io ho 4 cani, ma adesso non cominciamo a fare la gag sui cani. No, ma la gag diciamo sui cani. Che Roma 4 cani. 4 cani, va bene, mi fa schifo che siano 4 cani. No, per carità, 4 cani, va bene. I cani sono tenuti, sono cani che stanno a contatto con gli uomini, per cui quello che devono uscire e mischiarsi con la mondizia che c'è con i Rom. Coi Rom. Non parlo di Roma, parlo prima di tutto dell'immondizia, senza contare poi Roma, quello che è successo in questi giorni, una vergogna con un che ragazzo è successo? Che, ah, già, quello là che già stava accanto già è fuori di, che già è fuori. Che se la spassa, ma è una vergogna, è una cosa vergognosa. Roma non ma tu può che faresti con quello là, con quello che ha investito quella signora là, che faresti? Va bene, con quella povera ragazza morta, trascinata. E che faresti con sto ragazzo Rom, tu? Vabbè, lo lascerei in galera, al gabbio, come dovrebbe stare, che cosa vuoi che faccia? Cioè, deve essere libero, secondo te? Cioè, ma per carità, ma come fa a essere libero? Era una no, mi sono interessato dei 4 cani, cioè che effettivamente la sporcizia di Roma è un problema per i 4 cani, no? La sporcizia di Roma è un problema per noi umani. Beh, però anche per i cani, dici tu, no? Anche per i cani, io sono una persona abituata a portare fuori cani, per carità. A levare lo sterco dei cani, tutte queste cose le faccio, ma adesso non dico che Roma non può essere più considerata la capitale d'Italia, non versa in delle condizioni. Ma fai qualcosa, spogliati davanti al Campidoglio. Io penso che bisogna fare una grande manifestazione. Fai un atto di quelli tuoi che facevi una volta. Mettiti davanti al Campidoglio nuda, cioè nuda davanti al Campidoglio, ancora il fisico ce l'hai, la grande. Adesso non esageriamo, come senti non c'ho più voce. Vabbè, ma quello perché ti incazzi troppo con Marino. Ferma un attimo, fermati lì un attimo. Ferma Marina Nipa di Mara, ferma. Traffico. Traffico, il traffico è il problema. La Zanzara. Allora, immaginatevi un sindaco di centrodestra dove a un certo punto si scoprono dei contatti tra quello che è considerato il capo di Mafia Capitale, cioè Buzzi, e la sua segretaria. Lo avrebbero impiccato e Parenzo dice: Marino non c'entra niente, il baluardo. Sarà pure il baluardo, ma quella è la realtà. La realtà è che ci sono assessori indagati, gente in gattabuia, e qualsiasi altro sindaco di un altro colore politico sarebbe stato, come dire, messo sulla come minimo sulla graticola. Ma secondo me sarebbe stato si sarebbe chiesto l'intervento dei caschi blu a Roma per risolvere la questione. questione con un altro sindaco. Siccome invece adesso Renzi non sa che fare e si deve tenere buono, Marino non può farlo dimettere, no? Perché altrimenti pensa di perdere Roma. Ma questo non lo dico io, lo dicono tutti da giorni. Ma pare che Marino vorrebbe anche ricandidarsi. Ma io non lo so, ma io non dico che è mafioso Marino, dico semplicemente che in un'altra situazione la giunta sarebbe già caduta. Poi, per carità, l'immagine internazionale, Roma che non può cadere perché è accusata di mafia, per infiltrazioni mafiose, quello che volete, però questa è la realtà. Come si può pensare di governare la prima città d'Italia per altri anni in questa situazione? È ridicolo, no? Non ha senso. Allora, voglio capire però da Marina Lipa di Meana se ha paura della scabbia, perché ci sono dei casi di scabbia a Milano, eh? Beh, la scabbia c'è a Milano, io vengo ieri da Milano. Hai paura? No, non mi sono posta il problema. Il mio problema è la città dove vivo. La scabbia, magari così, arriva pure là la scabbia. La scabbia, sì, è molto. Certo, non è piacevole tutto questo. Siamo in una situazione. Scusa, ma quelli. Generale di difficoltà nel mondo, in Italia e in Europa. Gli immigrati però che arrivano. Quello che ha ragione Parenzo, che dice. Che dice? Che per molto meno. Per molto no, veramente meno, lo dico io, insomma. No, sei tu. sono cruciali, comunque non. Cruciani, per molto meno si sono dimessi personaggi della politica e lui resta lì. Ma che fa con le dita quel V come faceva chi era che faceva quel V? Te lo ricordi? Churchill. Te lo ricordi bene? Sì, ma io bene, insomma, c'è un po' meglio di differenza te. Vittoria, ma che vittoria di che? Vittoria di che cosa? Che la città versa nelle condizioni che versa. Scusami, che... Marina, ma perché no? Tu non ospiti qualche immigrato a casa tua? Ma guarda, perché non è proprio il caso. Perché? Prendila da casa, la casa grandissima. Io gli immigrati, scusate, non mi, ma a questo punto penso che debbano essere, non è, possano essere più accolti. Basta, stop immigrati. Ma ormai sei diventata salviniana, eh? Sono diventata salviniana. Penso che l'unico che ci può salvare a questo punto, guarda, con tutti i suoi difetti, non l'avrei mai votata, però... ma c'è una situazione talmente pericolosa, ma talmente arrivata lì. Che l'unico che ci può salvare è Salvini. Spero, l'unico che può fare qualcosa, forse. Spiaggia, forse è quella, ma bisogna fare qualcosa, bisogna assolutamente. Vai sopra una ruspa in un campo rom, Marina Lipa di Meana, sopra una ruspa, bellissimo, sì. Pensa all'immagine, Marina Lipa di Meana, con i capelli bellissimi, elegantissimi, sopra una ruspa di Salvini ad abbattere un campo rom, meraviglioso o no? Beh, guarda, non lo diciamo tanto perché quasi ci andresti. Ci andresti sopra la ruspa. È che se ne va dal sindaco di Roma. Ma questo l'abbiamo capito. Senti, scusa, ho letto da qualche parte che, siccome si è parlato molto di vitalizi, che tuo marito piglia 12.000, però, amica mia, 12.000 euro di vitalizio, eh? Ah, ricominciamo con i vitalizi. Beh, però è prende stato. Quello che prende io non neanche lo so. Ma 12.000, amica mia, è un po' troppo, o no? Io non so quello che prende mio marito. Ma come, l'hai detto mille volte? 12. Noi siamo due persone che abbiamo cose separate, le regimi separate. Per 12.000 quello... però, 12.000. Beh, guarda, adesso ti prego, ogni volta ricominciate. No, è i vitalizi, però sono importanti, la gente è incazzata. La gente è incazzata, se riprende, parla con lui, telefonate a lui. Poi glielo chiameremo. Io. No, vabbè, tu che ce ne sei, sua io moglie. Sono incazzata per come versa Roma. Va bene, ragazzi. Ti abbraccio, dai. Recupera la voce. La voce, mi raccomando, perché per salire sulla ruspa di Salvini ci vuole la voce. Ciao. Beh, amici miei, siamo al top. Siamo veramente al top. La Zanzara. Che voce sensuale che ha Cruciani, è veramente una bellissima voce. Per cui complimentoni per questo suo programma che ho ascoltato così recentemente. Siete proprio bravi, si è inventata un'idea geniale. Ragazzi, c'è una polemica innescata oggi contro gli utenti di internet da parte di una personalità molto importante, un intellettuale, Umberto Eco. che ha detto una cazzata, diciamo la verità, noi lo possiamo dire qui apertamente senza nessun problema, ha detto una puttanata sesquipedale, ma grossa anche, a dimostrazione del fatto che insomma le imbecillità, adesso questa non si può definire un'imbecillità ma una cazzata, può essere detta anche da persone, come dire, no, con il cervello grosso. Ma che cosa ha ragione? Ma sentiamo, non è che si senta benissimo, però sentiamo quello che ha detto. Ha perfettamente ragione perché tu vivi nel tuo mondo, nel tuo mondo che è estraneo. Ma non è che sia il mio mondo, ma come non è il suo? Ma che si può dire? Ma perché bisogna dire che su internet ci sono? Ma le imbecillità esistono? Ma le imbecillità? Ma le imbecillità esistono ovunque. Ma in particolare nella rete. Ma non è vero, non è vero. All'ennesima potenza, perché chiunque ha la possibilità di. Ma meno male che è così. Ma meno male che è così, che chiunque ha la possibilità di scrivere e dire quello che vuole. Meno male che è così. Anche le puttanate. Ma nessuno vuol vietare niente, anzi. Vabbè. Non mi pare che sentiamo Umberto Eco, dai. Vietare Twitter o Facebook. Da un lato un fenomeno anche positivo. Qualcuno ha detto, se ci fosse stato internet ai tempi di Hitler, i campi di sterminio non sarebbero stati possibili, perché la notizia si sarebbe diffusa viralmente. Ma d'altro canto fa sì che dà diritto di parola a legioni di imbecilli, i quali prima parlavano solo a bar e dopo. Dà diritto di parola a legioni di imbecilli, i quali prima la parlavano solo al bar. Esatto. Ha ragione lui, secondo te? Ma perfettamente. Ma allora ti do subito la dimostrazione del fatto che dice una cazzata pazzesca. Le imbecillità si possono dire anche da parte di premi Nobel. Recentemente un premio, no, ma per dire, le imbecillità si dicono ovunque. No, un premio Nobel, fermo, e un premio Nobel che si chiama Tim Hunt ha dovuto lasciare, credo ieri, il suo posto all'Università di Londra, alla University College of London, perché ha detto che ci innamoriamo delle donne, le donne si innamorano di noi e quando vengono criticate si mettono a piangere. Ha dovuto lasciare, in Inghilterra funziona un po' diversamente rispetto all'Italia, se dici una cosa contro le donne te mandano via o sei costretto a dimetterti. In Italia possiamo dire che ci sono quattro lesbiche, beh, effettivamente si è dimesso pure quello, ma insomma i casi sono rari di dimissioni. In Inghilterra un professore universitario deve lasciare subito la poltrona, giustamente, dopo le cazzate che dice, giustamente. Ecco, per dire che anche un premio Nobel, come era questo qua, può dire le sue imbecillità, certo, senza essere presente sulla rete. Per cui le legioni di imbecilli, meno male che si possono esprimere sulla rete, altrimenti magari prenderebbero a coltellate il professor Eco. No, ma nessuno contesta il fatto che uno si possa esprimere. E allora, forza. Non mi sembra che, ecco, abbia detto chiudiamo Facebook, eh? Ma non è questo. Parlare di legioni di imbecilli su internet è una forma di snobismo che non ha senso. Ma non è snobismo, è una constatazione che se fosse una constatazione non sarebbe una riflessione da Umberto Eco. Flotte di idioti non è che dicono quello che proprio pontificano sull'universo mondo. No, solo tu puoi pontificare invece, no, solo tu puoi ragionare. Solo tu puoi ragionare. Anch'io forse tra quelli, dai, che scrive imbecillità Enzo nella Dasti, rete, appunto, Enzo Dasti. Dai. Ci metto anch'io, è una grande però forma di libertà, punto e basta, il resto sono tutte puttanate. Enzo Dasti, dai. Ma nessuno mette in dubbio questo. Enzo, dimmi. Ciao, senti, io volevo solo chiedere a Parenzo, ma tu ieri sera non so se hai visto quella trasmissione di Del Debbio, no? Il buonismo. No, non l'ho visto, ma purtroppo. Guarda, vattela a rivedere. Quando ti senti dei profughi che si lamentano anche dei vestiti che gli hanno dato, ragazzi, il mangiare, in un paesino di 150 anime ne hanno messi un centinaio. È assurdo. E quando senti questi qua che si lamentano, no, ancora, secondo te, ti chiedo, scusa, ma sto facendo manovra col camion. Secondo te questi qua non incentivano già loro il razzismo? A me fa incazzare in una maniera mostruosa una cosa, sentirli così. Ma il problema non sono questi che si lamentano, ognuno si può lamentare per quello che vuole, è il sistema che è stato introdotto. Poi non è colpa di quello se si lamenta di essere finito in un centro di accoglienza al centro della Sardegna. Ma guarda, erano vestiti più dignitosamente di certa gente che incontro io per strada, eh. Però cazzo, lamentarsi così incentivano la gente nei coglioni pieni, scusa la parola. Io ho i genitori che sono pensionati, sì, ma io vedo veramente, io fortunatamente lavoro, guadagno bene, però vedo veramente tanto fatica, ma perché uno straniero deve avere più diritti di un italiano? No, maestro, non è una questione di più diritti, non credo che abbiano più diritti. Certamente quando tu arrivi qui hai un trattamento che spesso non viene dato ad alcuni italiani, su questo non c'è dubbio, ad alcune persone, ma quello perché bisogna rispondere ad un'emergenza. Il problema è cercare di evitare, come succede in altri paesi, che queste cose avvengano, che succedano quelle scene pazzesche come la stazione Tiburtina a Roma, come la stazione a Milano dove ci sono 500 profughi, tra cui alcuni con la scabbia addosso. Questo è il punto. Ti fanno odiare, io col camion. Ma tu dove vai col camion? Dove vai, amico mio? Io giro l'Italia, se vuoi sapere la storia dei finocchi è sempre quella, io ci sono sentiti un sacco di volte. Tra l'altro salutami Enzo Ghinazzi, un mio amico, non riesco a parlargli, volevo chiedere sta cosa di Agon Channel, ma... Vabbè, ma che te frega, quello era ieri, Pupo. Spiegami una cosa, ma no, non voglio sapere dei finocchi, ma è vera questa storia delle aree di servizio? Ogni tanto riprendiamo questa cosa? È vero, sì. Cioè, ma che succede? Adesso io basta. Dopo vari mesi voglio riprendere questa cosa, dato che sei qui ci hai chiamato dal tuo camion. Che succede concretamente? Dimmi, l'altra sera. L'altra sera ero a Firenze Sud, mi sono fermato, ho chiesto a un collega se era tranquillo, mi fa, guarda, non ho mai dormito qua. Mi sono messo a dormire, erano le 9 di sera perché ero stanco. A luna di notte sulla portiera, toc toc, ti spaventi, c'era un signore con la barba alta 1,80 m. Che vuol dire un signore con la barba alta 1,80 m? Non ho capito. C'era un finocchio. Vabbè, era un finocchio, che ne sai che era frocio? Scusa, amico mio, dai. Ma come che ne sai? Sono loro. Vabbè, allora ha fatto toc toc all'abitacolo, no? Cioè, se vuoi compagnia, Così, vuoi compagnia o no? Così. E tu che hai fatto? Vabbè, ma non è pericoloso, non è che ti ha messo il coltello sotto la gola, no? Cioè... Madonna, ti sento male, c'è il treno. Vabbè, fermati un attimo, non ho capito. Enzo, allora, ti ha chiesto se vuoi compagnia, giusto? Non ho capito, scusa. Che cosa ti ha chiesto questo signore che ha bussato? Ma ha chiesto se volevo compagnia in cabina, a luna di notte, cosa voleva secondo te? Vabbè, tu come hai risposto? L'ho mandato a fare in culo. Ah, subito, così? Cosa devi fare? Solo quello puoi fare, Beppe. Che ne so, magari ti andava, ti facevi da 50 euro, ci sarà qualche tuo collega che accetta per denaro, purtroppo, no? Purtroppo ci sono sicuramente. Ma perché purtroppo? È un do ut des, normale, c'è qualcuno che vuole pagare e un altro che dà... Guarda, io sono all'antica come te, Beppe. No, all'antica che vuol dire? Ah, ma nel senso che ti piacciono le donne, vabbè, d'accordo. Assolutamente sì, non anche è all'antica, due. Cioè... No, ma io scherzo, mi stai troppo simpatico. Vabbè, allora, ciao Enzo, ciao. Ciao. Allora andiamo a Katy, Giuseppe, vai. Chissà dove sta questo. Giuseppe. Silvano da Vicenza, vai. Silvano, dimmi. Io volevo parlare del discorso degli immigrati, no? Sì. Allora, gli immigrati del Sud Sahara attraversano il deserto sulle piste con camion, autobus, qualsiasi mezzo. Quando i camionisti hanno fatto il loro giro, li hanno portati in Libia o nelle coste del Mediterraneo, lì sarebbe il momento di proprio demolire tutti camion, autobus, tutti i mezzi che ci sono sulle piste del Sahara. Vabbè, adesso siamo passati dai porti alle piste del Sahara. Lì non ci sarebbero le persone a bordo, ci sarebbero soltanto gli autisti. Non sarebbe un crimine. Vabbè, allora? Eliminano quei mezzi aerei. Dunque? È un'altra soluzione invece per quelli che rimangono, li mandiamo tutti in Grecia. Li mandiamo tutti? Sì, ma togli quel cazzo di coso che c'hai, il microfono, viva voce, su. Vabbè, allora? Li mandiamo tutti in Grecia, visto che la Grecia non ci restituirà mai i soldi. Dov'è che li mandiamo, scusa, che non ho capito? In Grecia. In Grecia, ma perché dovremmo mandarli in Grecia, scusa, se arrivano in Italia? Come facciamo a mandarli in Grecia? Mi sembra un po' complicato. Con le navi. Mi sembra piuttosto complicato. Noi dalla Grecia avanziamo 30 rotti miliardi che abbiamo prestato. Vabbè, adesso i greci hanno tanti problemi, bisogna mandare pure gli immigrati. Hanno tante isole. Vabbè, ciao, Fulvio, Napoli. Buonasera ragazzi. Dimmi Fulvio. Siete auricolari? No, hai fatto bene. Intanto oggi no, mi hai fatto bene. Di voi perché non si sente bene. No, io sento benissimo. Oggi Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, ha detto a Saviano che a volte si inventa la camorra altrimenti resta disoccupato. Risposta di Saviano. Le parole di De Luca sono simili a quelle di Berlusconi. Vai. Vabbè, d'accordo, sicuramente non sopporto né Saviano né De Luca, ma infatti mi sembra una polemica scontata, dai. Avrà detto qualche cosa di provocatorio. Ragazzi, io volevo parlare invece a proposito del sindaco di Roma di Marino. E tu che cazzo ne sai? Stai a Napoli? No, vabbè, sto a Napoli, però un pochettino seguo, se permette. Allora? No, il quale, diciamo, sostiene che lui non è intercettato, non è indagato, non sa niente, quindi praticamente non si dimette. Benissimo, diciamo, proprio, cioè, non sei indagato, non sei intercettato, però c'è un piccolo particolare: se il sindaco di una città sotto al naso ti sta succedendo praticamente, diciamo, l'ira di Dio, tu non sai niente, nonostante che tutto ti stia succedendo sotto al naso da anni, se permetti è un ottimo motivo per dimetterti, perché da sindaco queste cose quantomeno dovresti, diciamo, sì, ma lì c'è un problema politico molto forte. Il Partito Democratico, non venirmi a dire, diciamo, non mi dimetto perché non, vabbè, so ma quello niente. Che deve dire, quello non è indagato, dice di combattere questo sistema, eccetera eccetera, solo che a parte i contatti tra Buzzi e la segretaria, vabbè, ma quello lui dice che è una telefonata irrilevante, un'intercettazione irrilevante. C'è un'altra questione, cioè Buzzi a un certo punto dice in un'intercettazione, ma se proprio bisogna parlare delle intercettazioni di qualche giorno fa, uscita qualche giorno fa, dice una cosa molto semplice: se arresta Marino, alla fine in 3 anni se mangiamo Roma. Questa è l'espressione usata. Chiunque sarebbe stato inchiodato a questa frase, ma non per responsabilità, per una questione politica molto chiara, cioè nel senso che secondo il capo di Mafia Capitale, sostanzialmente con Marino si potevano guadagnare un sacco di soldi, non grazie a Marino, con tutto il sistema, magari Marino. Perché Marino era ignaro. Fermo là. Buonasera, Luchi Romani alla Zanzara. La Zanzara. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, finalmente un giudice che capisce che non si può portare tutto in un'aula di tribunale. Difesi dalla Russa, 3 signori che avevano fatto il saluto romano non so dove, tra cui un cantante, un ex consigliere comunale, avevano fatto un saluto romano, saluto fascista, chiamatelo come volete. Era in occasione dell'anniversario della morte di Ramelli. Vabbè, insomma, quello che è. Questi signori avevano fatto il saluto romano. C'è chi voleva portarli in tribunale. In tribunale, non so per quale motivo, per apologia del fascismo, credo che non sia apologia del fascismo, reati imprecisati, cioè reati che non conosco, e sono stati assolti, perché diciamoci la verità, chi fa il saluto romano è una roba ormai da burletta, cioè una roba da folklore, cioè uno si mette a ridere, fa un buffetto, vabbè, arrivederci, no, grazie. Io non mi metto a ridere, vabbè, ma tu non ti metti a ridere perché è la tua storia eccetera, ma portare un tizio, portare un di qualunque persona, no, io sono una persona molto democratica, assolutamente democratica. Io sono per in Germania è oddio costaggio, ma chissà, a parte che non è vero che in Germania la gente va a finire in tribunale perché come fa il saluto mai romano, va a finire in galera, no, come ma mai? Quando, ma non è vero, perché non la è vero. Germania ha fatto i conti con la sua, ma storia, non c'entra e nulla, tu proclami un nazista, allora secondo te se uno fa il saluto romano deve andare in galera? Deve andare, ma no, deve pagare una multa, se deve pagare una multa, o andare a fare un po' di mica, tu, io non sono mica per riempire le galere, cioè uno fa il saluto romano e deve essere processato secondo te, paga una bella multa, magari va a pulire i cimiteri perché fa il saluto romano, le aiuole, dire cazzate, va a dai, tirare su le, ma perché dobbiamo cani, ma perché dobbiamo ingolfare i tribunali con cioè le tue puttanate, dai, come quel simbolo è quello, va a tirare su le cacche, ma dei dai, cani, ma non dire stronzate, aiuta una lecchina da attraversare la strada, non dire stronzate, fa delle cose utili, capito? Utili. Vabbè. Lavori socialmente utili, quelli che loro facevano fare ai dissidenti politici, agli ebrei, agli zingari, eccetera. Lui in democrazia. Andiamo a Roma, Ernesto, vai, Ernesto. Luciani, come va? Dimmi Ernesto, dimmi. Niente, io ho deciso, me ne vado, è l'ultima volta che vi chiamo da Roma. La prossima volta te ne vai. Ernesto dalle Canarie, vendo tutto, la casa, quei 4 soldi che ho. Meno male che sono stufo di vivere in questa città che è diventata una porcinaia, di stare in mezzo ai rom, agli immigrati, con quel cretino di Marino, supportato da tutti quegli imbecilli del suo partito che hanno paura di mandarlo a casa perché sono sicuri di perdere la poltrona di sindaco. Mm. Ma insomma, è quella gente di Melma come quell'idiota di Parenzo che lavora con lei, che la pensa come loro, non ce la faccio più. E vabbè, Ernesto, te ne vai, vabbè, non sentiremo la mancanza. La prossima volta sarà Ernesto da Tenerife. Oh, nessuno la tiene. La famosa fuga dei cervelli. Vada. Questo cretino che parla, vada, imbecille, vada pure. Invece di vergognarsi e di andarci a figurare in un loculo dell'ultima civiltà d'Italia, ha il coraggio di parlare pure sul network. È uno scandalo. Questa gente dovrebbe essere marginata. Mandiamoli tutti in Siberia. Stanno rovinando l'Italia. Ma chi sta rovinando? La più bella città del mondo. Ma chi sta rovinando l'Italia? Scusa, non ho capito. Chi sta rovinando l'Italia? Ma questi democratici di sinistra, questa gentaglia che tiene un sindaco come Marino ancora a fare il sindaco a Roma. Ma vi rendete conto, no? C'è bisogno di una persona che metta. Mica vivo a Roma, per fortuna. Chi è che vive a Roma? Io no, per fortuna no. Io ci vivo e me ne vado, mi vendo tutto. La prossima volta sarà Ernesto da Tenerife. E vabbè, abbiamo capito, vai alle Isole Canarie, non è che vai in mezzo alla cacca, vai alle Canarie, beato te che vai alle Canarie. Canarie. Spero di stare meglio che in questo cesso di città che è diventata Roma. Meglio sicuro alle Canarie. Non ho capito. Questa porcinaia a cielo aperto. Sì, però adesso. Io che poi sono cresciuto a Ponte Milvio, Corso Francia, Vigna Selluti. Vengo a sapere che per 30 anni ho vissuto insieme a Mafia Capitale e non me ne sono accorto, grazie a questi sindaci di merda che ci hanno governato in questa città, sì. Che loro hanno fatto i soldi con la pala, con gli immigrati, le cooperative, mi sono fatto un culo così a lavorare in banca 8 ore al giorno. Su ma che cazzo ragione. Di vita è? Io me ne vado, andate a fanculo voi Roma, Marina e tutti i PD, Renzi e compagnia, beh, è quel cretino di Palermo che, guarda, io smetterò di sentirvi per non sentire quelle stronzate di sinistra che dice Palermo. Ma oggi che ha detto di strano, scusa, che ha detto oggi? Ma oggi ha detto, ma è sempre strano, questo è nato strano, capito? Non è che fa lo strano, questo c'è nato, non è che ha bisogno vabbè, ma di dire qualcosa. Cos'è che ti ha fatto incazzare oggi in particolare, che ha detto? Ma sempre che difendono Marino, io per me Marino è come il fumo negli occhi, io lo vedevo volentieri inchiodato a una sedia a rotelle per tutta la sua no, vita, beh, aspetta, per quello mia, che no. Sta facendo, ma Ernesto quando adesso sta distruggendo per... una capitale, ma ho capito, ma adesso voglio dire, è uno dei paesi più belli ma governa da 2 anni a Roma, insomma ha un passato, altri sindaci ha un passato, dai, ma questo è un presente che offusca il passato, ma ho capito, questo ma 2 anni via, già quando è uscita la prima storia di Carminati Amparo sta là, fa il segno la vittoria, ma vittoria di che? Hai vinto nel senso che mi ha mandato via da Roma, con me ha vinto, io me ne vado alle Canarie, vaffanculo, non ci voglio stare più in questa città di merda. Ho capito Ernesto, vuoi andare alle Canarie? Quelli come Parenzo dovrebbero andare tutti in Siberia. Ma che c'entra la Siberia? E grazie alla gente come questo cretino che c'è a fianco, che l'Italia sta andando sempre di più nella melma e sta sempre di più in letalario. Ma scusa, mi risulta che non abbia rubato nulla Parenzo però, cioè chi ha messo a... Non ha rubato nulla, però è cretino. Vabbè. È peggio, lui ha rubato la vita, lui non ha diritto a esistere. Tu, scusami. Perché cretino? Sapientone, cose sbagliate che difende Marino. Marino è un pericolo pubblico. A parte che non ho difeso Marino, ma ho detto un'altra cosa che se vuoi ripeto, ma se no ho detto un'altra cosa, non ho difeso Marino assolutamente. No, non hai difeso Marino. Beh, hai detto che non c'entra niente. Sono 20 giorni che si parla bene di Marino. Secondo me ma la vogliamo finire di prendere in giro gli italiani. Ma secondo me tu invece sei uno di quelli che ha votato Alemanno. Io non ho votato nessuno perché mi fanno schifo tutti. Secondo però me questo mi fa più schifo degli altri. Mi fa più schifo degli altri questo perché ha vissuto culo e camicia senza accorgersene, perché è cretino. Io ci credo che non è in malafede. Questo non ha capito un tubo. È un idiota, è un imbecille. Non si è accorto di niente. Hai capito? Se non c'erano i magistrati, questi continuavano per tutta la vita a fottere questo, il prossimo. Questo non c'è dubbio. Senza Pignatone facevano. Ernesto, adesso però abbiamo capito tutto che te ne vai. Sole e mare. Va beato te, però, amico mio. Ce ne faremo anche una ragione. Beato te. Chissà se vi posso chiamare, però se c'è ancora Parenzo non vi chiamo manco dalle Canarie. No, chiamaci. Chiami, guardi, dalle Canarie. No. Dalle Canarie vi chiamo, ma non voglio sentire questo stronzo di Parenzo che mi ha solo per la voce. Dalle Canarie, non chiami. È errante, mi dà fastidio. Ebreo che c'entra, dai. Ebrerra, è un ebrerra, sono tutti così, sono strani, tutti. Sono dei cida, hanno ammazzato Gesù Cristo e Gesù Cristo ha detto starete male tutta passato, la vita. È passato da Marino. Sono passati 2000 anni, ancora volevo, esiste. Non volevo sapere. Dargli la qualifica dell'idiota perché mi sembrava dai, che troppo... Sei passato. Il passaggio repentino da Marino al deicida... Beh, questo è un ma ci azzecca per capire che costa di Roma sei. Se tu vai alle Canarie o dove piazza per Renare, nessuno ti reclama, secondo me. Hai capito, no? Vabbè, Ernesto, mi hai rotto i coglioni. Ciao, ciao, ciao. Ciao, buonanotte. Ciao. Ciao. Oh, make me over. I'm all I wanna be. Allora, ragazzi, circolano un sacco di foto di gente che piscia per strada. Di gente che piscia per strada. Vabbè, stai tranquillo, stai calmo. No, stava commentando mio padre, diceva giustamente che oltre al fatto che Roma è sporca, c'è la melma sì, per strada, sì. C'è anche la melma che telefona. Però beh, sì, ma non c'è dubbio. Appartiene alla stessa, diciamo, ci si lamenta per la città lorda. Sì, anche sì. Le persone sono lorde, però. Beh, quello ha la sua idea su Marino, poi è passato da Marino agli ebrei erranti, al decidio, alle follie della città. No, ma questo, ognuno ha il suo modo di esprimersi, certo. Passare da Marino agli ebrei erranti, bisogna essere matti. Allora, il problema che in questi giorni circolano un sacco di foto di gente, per esempio c'è una foto a Firenze, credo, che colpisce molto, con una signora con il culo enorme, tutta piena di grasso, sì, eccetera, che piscia e caga, forse. Ma a Firenze, però. Sì, a Firenze, che si pulisce per strada. Ce n'era una anche a Roma. Sì, a Roma. Allora, la questione è molto semplice, ragazzi. Io vedevo tutte le volte che partivo e mi pare che questa sia stata messa ai servizi sociali. Sì, una che caga alla stazione Termini, no? Sì, no, erano due signore che ogni volta, ogni mattina erano sempre lì. No, allora il punto fondamentale però è uno, ragazzi. Queste cose sono sempre successe. Oh. No, diciamo la verità, c'è stata sempre la gente che piscia per strada, che caga. Purtroppo, dico io, è che le stazioni. No, perché le stazioni italiane, ma in parte anche quelle di alcuni paesi stranieri, spesso non sono controllate, invece dovrebbero essere super controllate. Poi se c'è uno che caga per strada, non è che la polizia può essere ovunque, no? Non è che la polizia urbana o la polizia nazionale, può essere ovunque. E il fatto è che oggi esistono i telefonini. Cioè esistono i telefonini, le telecamere, dunque è tutto documentato e sembra che Roma o altre città siano invase da gente che piscia per strada. Ora sicuramente c'è un problema in alcuni quartieri, non c'è dubbio, ma non è che i quartieri sono invasi dalla gente che piscia e caga per strada, perché non è così. Cioè sembra questo perché abbiamo i fotogrammi o le immagini di quelle robe lì e prima non c'erano, questo è il punto, dai. Britan da Bergamo, sennò veramente uno pensa che Roma sia un posto dove arrivi e vedi, giri l'angolo e vedi uno che caga al quartiere Prati. Non è così, cioè va bene tutto, ma non è così. Sicuramente c'è un problema di zozzeria, l'immondizia, i rom in alcuni quartieri, gli immigrati che arrivano alle stazioni. Sì. Però uno circola a Roma, non è che vede solo gente che caga e immigrati che prendono d'assalto le vecchiette. Non è così, amici miei, non è così. Britan da Bergamo, dai. Buonasera, complimenti. Ma come a Milano, alla stazione c'è l'inferno. È evidente che 500 immigrati, tra cui non so quanti con la scabbia, non si possono tenere ed è una vergogna che arrivino. Ma non è che tutta Milano è invasa dagli immigrati. Dai, su, Britan, Bergamo. Allora io, Cruciani, buonasera. Complimenti per la trasmissione. Vai, dimmi. Ti segue da 8 anni, ma ultimamente sei diventato un po' moscio. Prendi in considerazione la classe alta. Non noti più per i poveri. Ma perché è che non lotto per i poveri? Io non ho mai lottato in vita mia per i poveri. Ma che cazzo stai dicendo? Non per i poveri in senso che manca da mangiare a classe operaia, perché oggi non manca da mangiare nessuno. Vabbè, non lotto più, vabbè. Allora che mi vuoi dire? Prima te lottavi, eri più zanzara, li zanzavi bene, li chiappavi bene i politici. Ora è un po' è calato un po', caro amico. Vabbè. Allora ti volevo spiegare, te la tolgo io, che la curiosità bisogna, di che bisogna Froci. Sopportare, guarda, La curiosità dei Froci te la tolgo io. Ma tu di che sei? Da quale posto vieni? Io sono di origine albanese, sei vivo albanese. Da 22 anni in Italia con cittadinanza italiana. Va bene, sei albanese, un camionista. Da bei 8 ho anni, capito, sei un camionista albanese, cosa mi vuoi raccontare? Io sono un camionista, guido un camion italiano. Che mi vuoi raccontare, caro Britan? Ti volevo, perché vedo che tu sei troppo curioso per i Froci, se ti va facci un'esperienza con gli uomini. Perché ma non sono curioso, curiosità. Non ho questa curiosità, almeno per il momento. Vai. Allora, i Froci, il problema di Froci è su A1, prima di Modena Nord, c'è un piazzale che si chiama il piazzale del Ferrari, c'è un Ferrari piccolo. Modena Nord, appuntiamo, Modena Nord, direzione sud o direzione nord? Direzione sud, direzione sud. Bologna. Allora, che succede a Modena Nord, direzione come sud? Come te arrivi lì, come si arriva, parcheggi, c'hai gente con la macchina che ti puntano. Si spogliano, cioè, dà fastidio a noi facciamo una giornata di lavoro, Oppure quando uno si ferma per fare il suo riposo la sera, e quell'altro ti bussa tu, è come bussare a casa di un altro, dice vuoi fare così pure devi pagare. Ma scusami, ma quando uno gli manca una mutanda a casa, no? E quando ti manca le mutande cosa fai? Vai al mercato e li compri. Quindi uno se vuole andare con i froci prende e ci va, non c'è bisogno di andare a rompere coglioni, tum. Vabbè, amico mio, ma quello là è uno che vuole sesso in cambio di denaro, oppure... Ho capito, allora il sesso lui... E allora lui... dai, se ti rompe le scale dagli una botta in testa, che ti devo dire? No, allora lui il sesso la deve, cioè, diciamo, chi è? Lui vuole sesso, però chi vuole sesso, chi vuol fare sesso con lui va da solo. C'è bisogno che vada lui, si presenti, tanto si conosca, c'è bisogno. Vabbè, Brita, ciao, fermi tutti. Buonasera. Questa trasmissione è assolutamente geniale. La Zanzara. Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavano. Ascoltatore. Servi di Roma fuori. Non è che questi africani si stanno vendicando dell'uomo bianco, emigrando da noi per darci filo da torcere, visto che l'uomo bianco per secoli li ha sfruttati e schiavizzati? Questa è un'idea geniale, devo dire. Non è che questi africani, invece di venire per fame, si stanno vendicando dell'uomo bianco, dice la vecchina? Vai vedere le tue braccia possenti. Un ascoltatore contro Varin. E tua moglie sarà a letto con qualche ciabattaro? No, sarà a letto con te, caro mio. Perché c'hai un cazzino così piccolo. Fammelo vedere, il tuo cazzino, dai, fammelo vedere. Ma tirati fuori la tua di moglie. Sono uno sporcaccione. Ma quello è vero. Libertà. Uno che dice tua moglie è a letto con un ciabattante, perché questi qua di Radio Padana chiamano ciabattanti gli immigrati. Ogni tanto qualcuno chiama Radio Padania per combattere con i conduttori. Sì, ma sono quelli a cui abbiamo fatto l'appello, no? Varin, senti. Abbiamo fatto l'appello ai migranti. Se tu arrivi da una zona di guerra, oh, tutti sparano, tutti morti, pum pum, perché cazzo non hai in tasca il documento? Sali Padania. Tutti i secessionisti che non hanno votato Lega in Veneto e che adesso sono lì e che stanno ribussando alla nostra porta dicendo: ma non è che per caso c'è posto? Sto cazzo! Vi attaccate a sto cazzo! Caccia oltre il fiume! Signor Varin, Radio Padania. Cari amici migranti all'ascolto, l'appello avverrà anche in arabo, in albanese, in rumeno nelle prossime ore. Ma questi ore. Non c'hanno la lira per piagne, tu pensi che facciano le telefonate a Radio Padania? Chiamate, dai, con la tessera telefonica che vi diamo quando sbarcate, chiamate immediatamente Radio Padania. Quando siete in un albergo con il wifi e nella piscina, dalla piscina con il telefonino e il wifi chiamate Radio Padania e mandateli a quel paese, amici miei. Seguite il mio consiglio. Salve di Roma fuori. Dobbiamo salutare ancora Ciro, perché sai che è stato rubato a Zanzara e ha detto che chiama Radio Padania solo per mandarci, Ciro, a fare in culo. Ma magari era quello di prima, Ciro. Non era, no, non aveva l'accento napoletano, però. Questo è il fratello di Ciro che ce l'ha piccolo. Un salutino a Ciro, dobbiamo farglielo. Ciro, ti prego, richiamaci, dici qualche parolaccia perché ci fai salire, oltre che quel coso lì, anche l'audience sulla Zanzara, sperando che Cruciani vada al più presto a Radio DJ. Salve di Roma fuori. Perché sperano poi? Non ho capito perché sperano. Bah. Pasquina da Ferrara 800. No, diamo il numero di Radio Padania. No, non do nessun numero. Pasquina da Ferrara 800240024. Alza la voce, sennò non si sente niente in quel maledetto telefono da casa tua a Padova. Pasquina da Ferrara. Buonasera. Ma se non alzi la voce, cazzo. Dai. Un salutino anche a Parenzo che aspetta a Ferrara quest'inverno quando Sgarbi presenterà il suo libro. Vabbè, dai, forza Pasquini, dai, forza. Dirle che, insomma, Cruciani, lei non fa più ridere, la Rita Di Meana è una donna spiritosa, insomma, lei stasera con quella cosa lì prende un immigrato a casa tua, ma non sono, lei, la signora non è stata al gioco perché era un po' irritata, insomma, non fa ridere quella roba lì di prendere un immigrato a casa tua. come nel vitalizio. Allora io le dico, Rita Di Meana, ma infatti non doveva fare ridere quella roba, no, nel senso che lei a volte, la signora è spiritosa, allora prende le cose vabbè, Pasquina, ma che vuoi? Spiegamene, dimmelo subito. Io che voglio, volevo dire che per il vitalizio volevo dire questo pensiero, sì. Rita Di Meana, quando è andato in Parlamento, ma uno che prende 12.000 euro di vitalizio, sarà c'era, eccessivo o no? C'era una regola e lui si prende quello che era la regola. Se a lei piace io così. Io ho abbastanza di sentire dire che tutto bisogna cambiare quello che è stato in passato. Era così e così è. Adesso non va bene che cambino, ma quelle cose che una volta erano decise così, ma insomma, che colpa ne ha se lui è vecchio, è andato in Parlamento allora? Allora tutti i vecchi che prendono vitalizio e pensioni cosa devono fare? Dimezzare, insomma, dimezzare, come minimo. No, ma sì. Era stato deciso, E chi se ne frega, tante cose vengono decise e poi si cambiano. E poi rivalutiamo i Vespasiani, bisognerebbe rimetterli in funzione, non so. Cioè, se lei dice ci sono troppi No, come no, li ho visti, ci sono troppi, ci sono pochi bagni pubblici. Vabbè, può essere, infatti la gente piscia per strada. Ciao, anche Giuseppe, provincia di Chieti, vai Giuseppe. Buonasera Cruciani. Sì, questo è quello di Chieti, mamma mia, che tristezza. Cominciamo bene, dai, cominciamo bene. Ascolta, ascolti, le do delle, il dottore. Dimmi. Un suggerimento, il maiale che c'ha a fianco, che la puzza si sente fino a vasto. Sì. Perché non lo manda in mezzo a quei disperati clandestini che hanno la scabbia lì a Milano, la stazione centrale, no? Che è passata mia figlia, mi ha detto è uno proprio. Lo manda là, lo mandi là, no? Di modo che si prende la scabbia e poi ci facciamo la forchetta con quel maiale che c'ha a fianco. No, però scusami, perché si dovrebbe prendere la scabbia? Spiegami. Perché lui... è uno che i clandestini, se li vuole portare a casa sua, se li porta, così li mette a disposizione pure di sua moglie, no? Okay? No, vabbè, dai Giuseppe, su, ma che c'entrano i clandestini adesso, su? Ma io poi non ho capito, la questione dei clandestini, perché uno se li dovrebbe tenere a casa? Io ho un'idea su come trattare queste vicende, Parenzo ne ha un'altra. Cosa c'entra col fatto uno che se li dovrebbe prendere a casa sua? Cosa c'entra, Giuseppe? Spiegami. Deve dire al popolo, a me cittadino italiano, che ho fatto il militare, che sono italiano, che non quel militare maiale che c'ha a fianco. Ah, okay, Giuseppe, fermo, levati, vattene, va, vattene, ma hai rotto le scatole, vattene. La Zanzara. Beh, amici miei, siamo al top. Siamo veramente al top. Allora, come sprecare soldi dello Stato? C'è una commissione, io manco lo sapevo, non sapevo che fosse ancora in piedi. La commissione d'inchiesta su Aldo Moro. Cioè, esiste in Italia la commissione d'inchiesta su Aldo Moro. E vabbè. C'è un presidente anche della commissione d'inchiesta su Aldo Moro, che indovina un po' chi è? L'ex ministro dell'istruzione Giuseppe Fioroni, il quale in questo caso non c'entra nulla, perché chi vuole sprecare denaro sono i signori dei 5 Stelle. Tu lo sai perché? Perché no. Vorrebbero che la commissione su Aldo Moro, persona scomparsa in quell'attentato che tutti conoscete nel 1978, quando c'era l'Unione Sovietica, eccetera, eccetera. Comunque, questa commissione su Aldo Moro si trasferisca, tu sai dove? Dov'è in corso la riunione del Bilderberg? E questo sai perché? Perché pare che sia a Innsbruck la riunione del Bilderberg quest'anno. Perché in quel luogo c'è anche Kissinger. Allora, Kissinger, l'ex segretario di Stato americano. Vogliono fare l'audizione con Kissinger, che può svelare delle cose fondamentali. Sono 43 anni. Ma dai, ragazzi, su. Pazzesco. Parla più forte a quel cazzo di telefono. Dicano che vogliono fare un viaggio a Innsbruck, è più serio, no? Cioè, ma basta così, ma basta parlare più forte. Ma non stai al bar qua, cioè. È una cosa pazzesca. Devo parlare ancora più forte. No, così va bene, ma così sempre, non così una volta. Ogni tanto borbotti. Urlo però. Ma non mi interessa, ma è così la storia. Altrimenti non è la radio, è un'altra roba. Bisogna fare essere il divino Telma per capire quello che dici. Cioè. siamo a Roma, Leo. Ciao ragazzi, buonasera. Dimmi. Io mi volevo riagganciare, scusa, ho chiamato quando stavate parlando delle persone che urinano e defecano in strada. Sì. Questa mattina mi sono recato, sono un collega di una tipo privata di Roma, mi sono recato a Piazza Dante per documentare una bonifica che è stata fatta dopo la nostra denuncia che abbiamo lanciato ieri. Dove c'era l'ira di Dio, di Montezza, bottiglie, guarda, una discarica c'era aperto in una piccola area giochi per bambini. Sì. Quest'area giochi per bambini, Piazza Dante, è sotto la nuova struttura che stanno costruendo, cioè la nuova sede dei servizi segreti. Mm. A 50 metri c'è la caserma dei carabinieri, a 100 metri. Sì, ma lo so dov'è la zecca, dov'era la zecca, dov'era Piazza Dante? Bravo, su Piazza Dante, ma abbiamo polizia, carabinieri e vigili urbani. E questa piazzetta a centro con un'area giochi per bambini. Insomma, contentissimo della bonifica, ho fatto il video. A un certo punto mi è entrato una persona con una bottiglia, ho detto vabbè, verrà, la butterà nel cestino vedendo pulito. Sì. Invece che ha fatto? Appoggia la bottiglia e va a urinare. Mm. Porca miseria, non ho fatto un tempo a riprenderlo, però i strilli sono arrivati. Ma chi era Corteo. Questo qua? Chi era questo? Un italiano. Sì, però amico mio, io credo che sia sempre successo. Cioè, aspetta. Sì, no, scusami, perdonami, ti dico. Il fatto è che tu oggi l'hai ripreso col video, certo. Cosa che prima non si faceva. Ho ripreso il secondo, perché questo è l'italiano, l'ho mandato proprio a fanculo, perché ho detto fai schifo, devi dare dovessi dare il bravo, giusto. Questo è stato i miei strilli che ho fatto. A questo, si sono sentiti fino a Colosseo. Vabbè, però non l'avevo ripreso. Mi sono messo un attimino lì di punta, ho detto magari ne arriva un altro, oh, non faccio un tempo a pensarlo, arriva il secondo, piano piano l'ho seguito, ti ho mandato anche il video, l'ho seguito e l'ho ripreso proprio mentre stava pisciando, dicendo piscia, sei bravo, tutte queste cose. Insomma, praticamente l'ho cacciato via da quest'area giochi. Mm. Adesso la gente che fa queste schifezze a Roma ce n'è tantissima. Quello che mi indigna, non il sindaco Marino, perché dici bene tu, perché lui è il sindaco, primo cittadino, ma poi ha messo una giunta con tutte persone che... Ma questa cazzo d'assessore Stella Marino a Roma che sta ammazzando tutte le aree verdi che abbiamo nei nostri territori. Però adesso non entriamo dentro la... No, te lo dico. No, ma va bene, perché io non so com'è la gestione delle aree verdi di Roma. Probabilmente è pessima, perché non ci sarà la manutenzione, non ci sarà la cura quotidiana, non ci sarà gente che... Sì, ma va benissimo, Leo, adesso per carità, va bene tutto. Guarda, una cosa veramente... No, ma va bene tutto, perché sicuramente non c'è il controllo. Il problema è questo, che è una città in cui non c'è controllo e ci sono persone che si possono permettere di pisciare e di sporcare ovunque. Ti dico l'ultima. Sì, però non è che quattro anni fa non accadeva. Esatto. Non è che guarda, scusami, io sono 20 anni che faccio questo mestiere e faccio la striscia alla notizia dei poveri. Sì, così, e non succedeva 5 anni fa? No, succedeva molto, ma molto di meno. 5, 10, insomma, succedeva molto, ma molto di meno. Ci saranno più poveri, che te devo dire? Cioè, non è... No, ma non sono i poveri. Io dico che è proprio la mancanza, a parte questi arresti. Ma educati, dai! No, quello sta dicendo un'altra cosa. Sta dicendo che io c'è... dico proprio le immondizie. Guarda, io poi faccio parte di un'associazione di volontariato. Che è legata, insomma, al nome importante dell'arma. Abbiamo bonificato insieme ad altre associazioni, compresa una di Rom, di Rom e dei Vigili del Fuoco, un parco a via Palmiro Togliatti. Era nelle stesse condizioni. Vista strade e lasciate. Va bene, Leo, grazie. No, ciao. Posso dire l'ultima cosa? Bonificato. Oh, scusa, adesso è importante. Hanno bonificato? Dimmi, dai. Niente, vabbè, ciao. Io vorrei provare a chiamare questo signore che si chiama Roberto Spada, che è considerato il, diciamo, uno dei boss, anche se lui dice di essere assolutamente senza macchia, uno dei boss di Ostia. È stato intervistato anche da radio, dagli amici di Radio Cusano Campus, dall'area che tira questa mattina. Roberto Spada, pieno di tatuaggi, il fratello è in galera per estorsione aggravata, non ha condanne definitive, ed è uno che addirittura dice di volersi candidare come presidente di quella zona di Roma. Chi è? Spada? Chi è? Sono Cruciani, buonasera. Chi? Cruciani, Radio 24, ti disturbo? Come stai? Bene, grazie. Senti, volevo chiederti una cosa, ma è vero che, come leggo, ti vuoi candidare come presidente del 10° municipio di Ostia? Ma no, ma dai. Ma ho letto questa, amico mio, ho letto, io sto a Milano, so di Roma, però ho letto questa roba qua. Diciamo che è una burla, però sta riscuotendo, diciamo, più che altro sono le persone che vogliono questo, non è che io non so, io che diciamo che è la gente che viene che vogliono che faccia questo qui a gente il 60% non arriva a fine mese, non ce la fa proprio a campare, magari ma tu faresti meglio di molti politici, dici? Ma non è che lo farei io credo che adesso come adesso, diciamo, qualsiasi altra persona farebbe meglio dei politici del momento, certo, quello è poco ma è sicuro. Senti, ma tu hai votato 5 Stelle all'ultima elezione? Sì, io l'ultima elezione ho votato il Movimento 5 Stelle. E lo voteresti ancora? Certo, perché no? Per il momento non è che... Ma cosa ti piace? Cioè, per esempio, Di Battista ti piace? Certo, porca puttana se non mi piace Di Battista. Dice le cose come stanno, è semplice, non è che mi fa gasare, che dico, oddio, questo è il mio io, no. Semplicemente e chi ti piace ancora? E chi ti piace ancora dei 5 Stelle? Anche Di Maio, ma anche lo stesso fondatore, anche Beppe Grillo. Anche Beppe Grillo ti piace ancora? Certo. Senti, ma dicono, siccome tu appartieni a una famiglia, insomma, che ha dei trascorsi, eccetera, eccetera, che diciamo, ha una famiglia criminale di Ostia. Ma una famiglia criminale di Ostia, allora, ripeto. Ad Ostia ci sono ben 500 persone che fanno di cognome Spada, di cui ci sono alcuni cugini di terzo grado, secondo grado, sai come funziona in queste famiglie che sono radicate da 60 anni che stanno qui e si sono allargati. Ma tu non sei il reggente del clan Spada a Ostia? Ma questa è soltanto un'inventiva, questo è stato creato, questo clan, diciamo, io come reggente. Chi se l'ha inventata sta cosa? Diciamo che è una cosa mediatica per spostare le attenzioni, per spostare... tuo fratello non è un stinco de santo, diciamo la verità, insomma, no? È stato coinvolto. Guarda, allora... Romoletto, no? Sì, lui sta... per il momento è rinchiuso in Regina Celi, ma... Diciamo, allora, cioè è innocente per te? È innocente per te? Fino a prova contraria, fino a terzo grado, la persona è innocente, sbaglio. Non hai niente a che fare con i criminali, tu? No, assolutamente no, quelle criminali. No, perché allora c'è il Partito Democratico a Roma, che dice, hai sentito quello che dice Orfini, no? Hai sentito quello che dice... Sì, ma scusa, ma loro a che si devono attaccare? Ma è normale, ma loro stanno facendo tutto questo qua per toccare il Movimento 5 Stelle, perché lo sanno che stanno in difficoltà. Ma loro se stanno attaccati, stanno a fare poco una cosa, stanno a fare... E perché lo fanno secondo te? Perché la vera mafia qual è? La vera mafia qual è secondo te? Che ne so, dimmelo te, l'opinione tua. Ma scusa, ma l'opinione mia qual è? Ma lo sanno cane e porce, ne lo dico io. Cioè il PD è una cosa evidente, è certo. Ma Marino per te se ne dovrebbe andare? Marino se ne dovrebbe andare? Marino, ma chi ci ha messo qua? Ma come, da chi ha preso questi voti? Ma chi indossava questa gente? Chi vorresti come sindaco di Roma? Chi ti piacerebbe come sindaco? L'ideale sarebbe Di Battista. L'ideale. Ma a Ostia secondo te esiste la mafia? Sì, è il PD. Ah, il PD, pure a Ostia la mafia è il PD. Scusa, no, però soprattutto, allora, a Ostia la mafia è il PD. No, io però, scusa, no, a Ostia, ho capito, però amico mio, tu c'hai un fratello che sta in galera, per carità, fino a prova contraria è innocente. Sì, ma... Per gravi reati. Per gravi che è? Per mafia, per cos'è? No, vabbè, vari reati, che era, non mi ricordo, estorsione aggravata, credo. Che è per mafia o che quello poi dopo... Si legge che la famiglia Spada è coinvolta in numerose inchieste giudiziarie, è considerata alleata di un'altra famiglia Fasciani, e tu mi dici che a Ostia la mafia è il PD. Vabbè, d'accordo, per carità, però... Ma scusa, non riesco a capire, allora, per quale motivo indossare... Io sono integro, sono pulito. Non c'è nessuna accusa? Zero. Poi voi mi dite che mio fratello... Allora, mio fratello deve essere ancora giudicato. Sì. Partiamo da capo. Renzi, il suo padre è indagato... Per banca fraudolenta, se non erro. No, non è quello, ma comunque non è la stessa cosa, non è estorsione aggravata. Sì, sono d'accordo con te, no, sto facendo i due reati uguali. Poniamo il caso che il padre venga condannato per questa banca fraudolenta. Sì, dici che c'entra il figlio, dici che tu. C'entra il figlio? Sì, no, vabbè, per carità, però... Perché tocca fare due pesi e due misure? Un senatore esposito del Partito Democratico sostiene che se voi siete una famiglia di criminali, in sostanza... Ma dove? Chi? Ma su 500 persone ci stanno due persone che stanno in galera e altri 5-6 hanno avuto i reati. Adesso non ricordo bene quanti hanno i reati di piccola più piccola. Voi state sbagliando, te. Microcriminalità con mafia sono due cose separate. Cioè al massimo i miei parenti hanno fatto qualche cazzata di microcriminalità, ma la mafia non c'entra niente. Ma assolutamente no, ma quale mafia? Senti una cosa, ma facciamo un gioco, metti che tu sei, no, il diventi presidente del decimo municipio di Ostia. Sì. Ma tu dei Rom, che faresti con i Rom? Con i Rom? Sì. Questo è un bel pasticcio, perché io non credo che in Italia il 0,2% della popolazione sia il problema effettivo, che tu togli 0,2% e hai risolto tutti i problemi. Io che farei con i Rom? No, ma che ne so, la tua idea con i Rom, che ci faresti tu? Cioè, butteresti fuori e faresti la ruspa? Butterei fuori, ma caruspa? No, dai, non si può sentire. Insomma, adesso così non te lo saprei dire, la verità. E gli immigrati invece, quelli che arrivano adesso? Gli immigrati che arrivano adesso, ma questo, ci stanno dei discorsi che sono un po' troppo. Ma comunque, insomma, tu li faresti sbarcare oppure faresti, che ne so. Ma scusa, questi sono esseri umani, non è che stiamo a parlare di. Davide, la pensa come te, eh? No, io voglio. Ma adesso pensa come me, è un po' diverso. Ti ringrazio molto. Ciao Roberto. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Fermi lì, torniamo tra un attimo. Giovanni da Pescara, Luigi da Rieti, Giovanni da Prato. A Cruciani, a decaduto. La Zanzara. Allora andiamo a Rieti. Luigi, non so se hai sentito prima durante l'intervista a Spada che diceva a un certo punto invece di bancarotta fraudolenta, banca fraudolenta, bellissimo, sì, banca sì, fraudolenta, sì, stupendo, due volte pure, banca fraudolenta, io me ne sono accorto solo dopo. Beh, ma quella è un neologismo, una bella espressione, non è sbagliata. Accusato di banca fraudolenta, bancarotta fraudolenta. Luigi, Rieti, vai. Pronto? Dimmi. Senti, io volevo dire una cosa. Sì, dimmi. A proposito della gente che si ama di solito. Sì. Praticamente c'è un numero impressionante di razzisti, di xenofobi, di omofobi. Impressionante, un numero normale, direi, un numero normale. Un numero abnorme. Cioè, un numero abnorme, cioè, secondo lei, cioè un numero normale di persone che più o meno ogni tanto derapano, ogni tanto dicono la cazzata, ogni tanto esprimono semplicemente rabbia, eccetera, eccetera, eccetera. Lei adesso li bolla tutti come razzisti, omofobi. No, no, non tutti. Tutti è una parola sua. Vabbè, poi? Voglio dire, ci sarà un motivo se questa trasmissione ne attira così tanti? Ma non c'è nessun motivo, la gente qui può parlare liberamente. In altre trasmissioni, primo, non ci sono gli ascoltatori, secondo, non possono parlare liberamente, magari li zittiscono dopo un secondo. Io faccio parlare tutti liberamente, faccio parlare lei, faccio parlare uno che si proclama razzista, faccio parlare uno che dice che i Rom vanno soppressi con i forni crematori, detto, eccetera, eccetera. Se a lei non sta bene, me ne farò una ragione. Voglio dire, queste persone qui dimostrano innanzitutto di avere delle frustrazioni represse incredibili. Vabbè, può darsi, questo lei sta facendo un'analisi adesso psicologica delle persone che chiamano. È interessante, però non mi pare di grandissima molte attualità. Di loro, anche per sostenere ancora oggi nel terzo millennio certe idee, dimostrano anche una sconcertante ignoranza. Vabbè, poi? Per questo vorrei dire, voi Parenzo non siete ignoranti, potreste che dobbiamo mettermi fare? In ridicolo in maniera molto più efficiente di come ci fate di solito. Vabbè Luigi, fermo là, traffico. Una cosa controtendenza. Viva il traffico! Viva il traffico, perché c'ha una voce sexy! La Zanzara. Hey, oh, let's go. Hey, oh. Allora andiamo a Pescara, Giovanni, vai. Sì, buonasera Cruciani. Dimmi. Buonasera Apparendo. Niente, prima cosa volevo fare un appello, salviamo Roma perché è una città bellissima. Vabbè, salviamo Roma, ragazzi, adesso non è che c'è bisogno di salviamo Roma, a me mi fanno impazzire quelli che vanno in televisione, Roma sopravviverà a tutto, anche a questa roba no, qui. Salviamo Roma, ma che vuol dire salviamo Roma? Dai, c'è un gruppo di criminali che ruba soldi dello Stato, adesso Roma, Roma è un po' quello. Superiore a Buzzi, a Marino, agli altri, dai. Ma io non dicevo per quello sono cose burocratiche, così. Io dicevo a livello di pulizia di città, questa qua dove stanno tutti i monumenti, le cose belle da vedere. Per quanto riguarda la politica se la vedono i romani, insomma. Vabbè, allora? Niente, io avevo chiamato per dire che tutti questi qua che chiamano che parcheggini ci stanno i gay, ci sono anche due parcheggini che ci stanno anche delle ragazze, delle prostitute, se ne andassero là, anche perché i gay, io ne ho visti tantissimi ai parcheggini, non ti danno fastidio. Cioè, tu dici là, nei parcheggi, che... nelle piazzole. A me mi danno più fastidio le prostitute perché sono belle ragazze alcune, sai, a vederle. Ma tu fai il camionista, Giovanni? Sì, sì. Non ho capito. Allora tu dici perché si lamentano questi qua? Ma è vero che ci stanno sti gay? Io non ci no, posso. No, ci stanno, Cruciato. È pieno. Guarda, ma se lo dicono, mica se lo inventano, scusa. No, no, è verissimo. Io ci guarda, credo, in qualsiasi certo, paesino tu ti vai a parcheggiare, là ne trovi almeno uno. Vabbè, allora tu dici a te non danno fastidio. Ma no, ma non danno fastidio a me, ma come non danno fastidio neanche agli altri, penso io. È logico che bisogna anche accettarli, ci sono, che fai? Ce ne sono anche tanti. Poi tu c'era una cosa ti volevo dire, io questo è successo un anno e mezzo fa, prima ancora che ti ascoltavo. Sono andato in un bagno sulla tangenziale est di Milano e sulla porta c'era scritto Cruciani sei un ricchione. Io l'ho letto, ma chi è sto Cruciani? Sì, io sì. Mi sono messo alla radio, ho iniziato a sentirti per radio, no? Però già allora già c'era qualcuno che ce l'aveva con te. Sì, sì, vabbè, ma sai, quando mi scrivono ricchione è il minimo, cioè... Sulla porta del bagno, sì, ma io non sì, ti conoscevo ma... perché non seguivo la trasmissione. No. Non c'era il numero di telefono, però. No, che numero di telefono? No, no, no, c'era una scritta così, appena te lo scrivono, sai, così, mette il numero di telefono. No, no, no, c'era scritta vabbè, così. Giovanni, grazie, ciao, ciao. Niente, Umberto, ciao. Provincia di Rimini, vai. Umberto, vai. Ciao Giuseppe. Dimmi. Una volta ogni tanto vorrei darti della testa di cazzo anche a te, come a Cruciani e come a Parenzo, perché comunque la verità su tante cose non la dite, no? Ma qual è la verità? Per esempio? Cioè, per esempio sugli immigrati, sui rom e poi tutto quel buonismo di Parenzo relativamente. Ma non c'è nessun buonismo in realtà. Non mi piace perché quando, scusa se io non lo dico, buono ma per quando niente. Scusa se te lo dico, ma quando insomma adesso tu Parenzo, ebraica, che tu, no? Che, tu che tu non sei buonista favore. Che tu non sei buonista con gli immigrati no, adesso è sbagliato dire questo buonista, francamente in realtà, cioè questo francamente è un paradosso dai no, su no ma io non sono buonista è non sei buonista stupida. Va bene d'accordo perché in realtà gli ho detto un'altra cosa ma se l'altro giorno dicevi è vero quando non so chi diceva bisogna è inevitabile che arrivino qua ma no ma, ma questa è una cosa persino anche banale evidente va bene è banale evidente altri paesi che riescono invece a evitare che la gente mette piede sul proprio suolo invece sono tutti paesi di merda. Va bene, ma fai quello tu, che dai. Io dico che non è buonista per niente è che risolvere, ridurre il conflitto vuol dire mettere le persone in sicurezza, quindi non c'è nulla di buono. In realtà è ovvio, chi è che vuole lasciare questi qui alla stazione eccetera? Ma secondo te io sono a favore di questa roba? No, assolutamente, è evidente. Cioè, mettere in sicurezza questa roba vuol dire mettere in sicurezza le persone, quindi non c'è nessun buonismo, ma nessuno. Va bene, Umberto, allora invece. Non è per niente. Comunque, tutto questo casino che si è creato, tutto questo marasma, è perché è dovuto comunque sempre al mondo occidentale che crea, li vuole far partire tutti da quei posti, come dal Darfur cominciare a venire su. Tutto il mondo occidentale si vuole impadronire delle loro ricchezze, come la mafia che è a Bruxelles seduta e nessuno lo dice. Neanche voi mai parlate di queste cose, parlate solo del problema di che finale. Cosa che dovremmo parlare della mafia perché a Bruxelles? Non ho capito, di cosa dovremmo parlare? La mafia è seduta a Bruxelles, con i colletti bianchi oggi, lo sai bene, è uno di questi, sappiamo, sono i nostri governi, un siciliano di un nuovo centrodestra che è seduto, sappiamo bene da dove viene, Allora, con tutti i soldi che ci mandano giù, l'Italia sta zitta, invece di ripartirseli, fare come tutte le persone normali, perché è una cosa normalissima, mi sembra, no? Ti siedi al tavolo, tu lo sai, ragazzi, che io non sai che io non ho capito nulla di quello che stai dicendo, nulla, non ho capito niente di quello non che capisci? Ma non capisci, non stai dicendo nulla, la mafia di Bruxelles, ma che vuol dire la mafia io di Bruxelles? Vuol dire che i soldi che arrivano, ma il capitale lo dimostra, i soldi che arrivano, che si spartiscono questi maiali qua, giusto? Sono soldi, perché vengono su sti neri? Perché vengono su? Che hanno il peso sotto il culo, hanno un peso ricchissimo come l'Africa, però li mandiamo via con le bombe, li togliamo da bere, vedi cosa fa. Arrivederci, Umberto, arrivederci, grazie. Oh, riprende la nostra grande inchiesta. La nostra grande inchiesta sul cambiamento dei nomi. In accordo con le prefetture, in accordo con i comuni, con i funzionari comunali, bisogna eliminare i cognomi. Insomma, i cognomi che indecenti. Per esempio, c'è un sacco di gente che si chiama Topa di cognome. Ora voglio dire, va bene tutto, però tu non ti puoi chiamare Topa. Beh, no. Se ti chiami Topa in Toscana è come dire. Ma no, ma comunque non ti puoi chiamare Topa, no, dai. In Toscana no, ma se tu in Val d'Aosta ti chiami Topa, sai già lì. Ma no, ma ti chiami in Toscana Topa. Toscana è già più forte, ma ho capito, no? Ma è come se uno in Toscana si chiamasse di cognome Giuseppe Fava, ad esempio, ma no? No, vabbè, ma è diverso, se Topa è universale. In un altro comune, ma la Topa è universale, vale dal Trentino fino in Sicilia. Sì, quello non c'è dubbio, però in Toscana in particolare. Sì. Sì, buonasera, Topa Rosa? Sì. Signora, buonasera, chiamo dal comune. Il comune ritiene che certi cognomi andrebbero cambiati perché possono generare indubbiamente imbarazzi. La chiamo per questo motivo, è disponibile a cambiare cognome? No, comunque guardi, io ho una nipote che lei non ha mai sopportato questo cognome, sarebbe la figlia di mio fratello. Lei è sempre stata contraria. Contraria, sì. Immagino già, perché superata e no. Una cosa è a scuola che incominciano magari a urlare Topa Rosa, Topa Rosa, Topa Rosa. Ma magari... guardi, è un'esperienza. Sì, Topa Felice? Con chi parlo? Buonasera, io chiamo dall'ufficio anagrafe del comune, sto cercando Topa Felice. Sì, di che si tratta? Posso anticipare a lei? Lei è la signora Topa? Sì, adesso ne passo mia madre. Ah, va bene, grazie. Ah, l'ufficio anagrafe del comune, sono Topa Felice. Pronto? Signora Topa Felice? Aspettate un attimo, passo mio marito. Sì, non è perché comunica il nome. Pronto? Topa? Lei è Topa Felice? Lei è Topa Felice, giusto? Sì. Ecco, che non facciamo confusione fra Topa e Topa. Allora, la chiamo per questo motivo. Il comune ritiene che certi cognomi vadano modificati, cambiati. Non hai che fare tu. Mi scusi, ma non la capisco. Non hai che fare tu. Scusi, quello no, quello mio va modificato. Andrebbe modificato perché può generare imbarazzi, lei mi comprenderà, vero? No. Le chiedo se è disponibile al cambio del cognome, questo le sto chiedendo. Sì, veramente il proprio in idafa. Mi scusi, mi perdoni, io non sono. Ma tu vedo là, ma tu dici. È così gentile magari da parlarmi in maniera un po' più comprensibile. Ma io non voglio proprio parlare. Noi le chiediamo di cambiare cognome, ma abbiamo anche un budget a sua disposizione di 1.000 euro. Quindi sì, per me non mi serve né 1.000 euro, che voglio cambiare cognome. Tu forse non hai niente da fare. No, no. Va bene? Mi perdoni, beh, ma lei è un po' scortese con me, io sto facendo il mio lavoro, però. Così, guarda, io ti consiglio una cosa, carica il podcast, ascoltati e sentirai quanto sei noioso. La Zanzara. Io non ho la televisione, sono andata a scattare per vedere voi due come siete, brutti, bruttini, sì, veramente. Allora, abbiamo in collegamento una persona che dà speranza a tutti, che attraverso metodi scientifici ci dimostra che le dimensioni del pene non contano, che le dimensioni del pene non sono importanti per chi avesse avuto ancora dei dubbi. Ebbene, questa dottoressa che si chiama Stefania Piloni, una ginecologa esperta in sessuologia, dà una speranza a tutti quelli che magari hanno dei complessi e pensano di essere inferiori agli altri, di non poter soddisfare la propria partner. Dottoressa, buonasera. Buonasera a voi. Allora, ma è tutto vero? Vabbè, oppure è una di quelle solite cose che vengono dette così per fare casino? No, no, è tutto vero. Ci sono un sacco di donne in difficoltà con gli uomini alfa, con gli uomini grandi, per cui a volte c'è uno svantaggio. Ad esempio, come li chiama lei, uomini, scusi? Siccome siamo qui in difesa degli uomini beta, li ho chiamati uomini alfa, quegli altri. Cioè, gli uomini alfa sarebbero i super dotati? Quelli un pochino più dotati, insomma. Anche ecco, lì c'è un po' di confusione. Ecco, per lei che significa quelli più dotati? Ecco, sì. Ma stando, io faccio il medico, per cui da medico potrei dire cos'è una misura normale. Una misura normale in erezione di un uomo intorno ai 13 centimetri e invece un uomo tranquillo prima dell'erezione intorno ai 9 centimetri. A queste misure arrivano tranquillamente. No, dottoressa, voglio dire questo: siccome magari ci sono persone in macchina, non vorrei che mentre stanno guidando. Stiamo parlando di cose serie. Si misurino direttamente. Certo. Magari tornati a casa, ascoltate in registrazione, perché ci sono tante persone che mi hanno scritto, no, serissimo, perché mi hanno scritto in questi giorni proprio chiedendomi di fare esplicitamente questa domanda. No, ma è appunto infatti la domanda classica. Allora, l'anticipo perché gli uomini sono fissati sulle misure, come sono fissati sul 90-60-90 delle donne, o sotto la terza non è vero amore, ecco, siete fissati anche sulle vostre misure, ma noi donne no. Ma lei magari non è fissata, io conosco un sacco di amiche mie che sono fissate. Lei dice le donne in genere. Ma nessuno l'ha mai misurato, l'hanno mai misurata lei, Cruciani, non credo che una donna sia rappresentata con un righello. No, però basta vedere, insomma, no, per capire se uno poi a un certo punto vale la pena o non vale la pena. Alcune donne, come dire, prendono questa roba qui come una condizio sine qua non, però lei invece dice la maggior parte delle donne, per la maggior parte delle donne. Io sento i racconti veri delle donne, perché da ginecologa ho questo ascolto privilegiato. Certo, sento, non sono interessate, di... però torniamo dolore alle misure. Dolore alla penetrazione, dolore alla spinta profonda che spesso muove anche gli organi interni, cistite postcoetali, una volta si chiamava la cistite da luna di miele, per cui due giorni dopo mi viene una gran cistite. Se l'uomo anche o nella coppia c'è una predilezione anche per altri tipi di sessualità, le emorroidi, cioè quella anale, quella anale. Dunque, insomma, in difesa degli uomini beta, comunque voglio dire che sono anche più fantasiosi, perché un uomo, cioè, sotto, l'uomo beta, secondo lei è sotto i 13 centimetri? Ma è sotto i 13, sì, un pochino sotto, sì, magari arriva a 10-11. A 10-11 uno è, diciamo, mini dotato in elezione. Un pochino meno dotato, però di solito è più fantasioso, perché se è più in difficoltà riesce a drammatizzare questa cosa, è più generoso anche verso la compagna, per cui trova altre strade di soddisfazione, per cui questo può piacere a una donna, perché a volte gli uomini sono un po' noiosi, per cui comunque da questo punto di vista, soprattutto, cioè, quali sono i vantaggi dell'essere mini dotati, cioè di essere provvisti, diciamo, di un pene di 11, beh, 10, 11 dai, beh sì, sta dicendo di sì, assolutamente, ma adesso non è che sono dei vantaggi, dire, che vantaggi, sono quelli dai. Che anche le donne hanno diverse misure, perché non tutte le donne sono donne più piccine, ecco che allora una donna dice: io col fidanzato di prima avevo un sacco di dolore e la mia esperienza di sessualità era un'esperienza dolorosa, e siccome facciamo anche medicina del piacere, quella stessa donna trova un altro fidanzato più piccino e ti dice: oh, finalmente, adesso so anch'io cosa vuol dire un bel rapporto piacevole dove non sento dolore, dove mi piace. Ma questa... voglio capire, dottoressa, l'hanno mai intervistata al Sole 24 Ore anche su questi temi? Al giornale, al quotidiano? No, ancora no, però ci potremmo arrivare. Allora, no, però, non è che ma è vero, perché lei dice che il sesso... No, perché lei dice che il sesso orale è più facile con un pisello piccolo? Questo uno dice... Anche, perché comunque, anche questo, infatti, nell'intervista, perché comunque bisogna aprire di meno la bocca, di conseguenza chiaramente può essere più fastidioso. E poi l'altra cosa più importante è che un uomo più vicino arriva nel tempo a avere una sessualità anche nell'andropausa più duratura nel tempo, perché per risvegliare un organo più grande sono magari gli anni dei 70 e devi portare più sangue là sotto, per cui può essere più impegnativo. Invece se l'organo è più piccolo e chiaramente ci vuole meno sangue di erogazione. È un po' come per quei borghi antichi, piccolo e bello, no? Quest'Odi. Piccolo e bello per molte donne che sono anche per loro piccine, per cui ripeto, no, ma io parlavo dei borghi. No, sì, però ho capito, cioè la cosa è questa: stiamo facendo l'elogio della taglia small, l'elogio del cazzo. No, l'elogio, io mi sono appassionato a questa vicenda perché effettivamente è un problema di cui parlano tutti. Ha ragione la dottoressa. La dottoressa dice: un sacco di uomini sono fissati, le donne meno. Dunque, lei da donna, lei per esempio personalmente è fissata su questa cosa qua? No, non gliene frega niente. Non gliene frega niente della big di quella che qualcuno chiama la big mazza. No. Assolutamente. Assolutamente. No. E secondo lei moltissime donne sono indifferenti, però amica mia, non è che... No, molte donne, le donne non sono indifferenti a una bella sessualità, le donne pretendono una bella sessualità. Vabbè, il problema, non d'accordo mica tanto, perché molte donne hanno orgasmi che molte donne fanno ancora finta, molte donne per farsi... Molte donne fanno finta, veramente? Ma certo, fanno finta perché alla fine concludono così la sessualità. perché non vogliono dispiacere a voi, non vogliono dispiacere a un uomo, però spesso non è così, per cui molte donne vogliono una bella sessualità e dunque perché no, se è un uomo più fantasioso che non si rattrista su una misura di qualche centimetro, ho capito, però è difficile, è riuscita dottoressa a zittire Cruciani, perché sta pensando nella sua lunga carriera, cursus honorum lunghissimo, sta ripensando a tutti quei momenti tantissimi in cui probabilmente hanno finto. Brava dottoressa. No, io devo dire la verità, io credo che credo che fingere sia la cosa peggiore per una donna, cioè veramente se una donna mi dice ho finto l'orgasmo, beh, è un'offesa tremenda. Anche perché non torni più indietro, anche perché come fai a dire questo poveretto dopo un anno che fai finta, che hai sempre fatto finta? Lei ha fatto finta qualche volta, dottoressa? Sì, mi dica la verità. Ma qualche volta sì, ho fatto finta, perché finta comunque la sessualità, ma la sessualità delle donne non parte mai così a sprombattuto. Sei giovane, non pretendi un granché, pretendi quantomeno non sentire dolore all'inizio. Voi avete piacere da subito, noi all'inizio pretendiamo di non sentire male ai primi rapporti. Vabbè, ma non è detto, c'è gente, magari lo facciamo per non scontentare voi. Ma questa storia delle acrobazie, cioè perché è più facile con un pisello piccolo fare acrobazie? Ma non è vero, è il contrario, perché comunque il pisello lungo tocca in fondo il collo dell'utero e lì poi magari hai cistite, magari hai più dolore al ventre. Beh, scienza, e alle spinte, non è scienza. Ma allora perché c'è gente che pensa di farcelo allungare? Perché dicono che c'è un boom di chirurgia estetica anche per allungamento del pene? È perché sono le donne, c'è il boom dell'aumento del seno piuttosto che dell'aumentare il volume delle grandi labbra. Perché purtroppo il sesso viene inteso come performance, ma il sesso non è una performance, dovrebbe essere almeno una delle cose che nella vita non è una performance, perché una performance è un lavoro, una performance è la carriera, ma almeno la vita sentimentale. All'approvazione è un linguaggio inconcepibile per Cruciani. Ma non è vero, assolutamente. No. Ma qualcuno mi chiede: ma lei veramente magari ha iniziato questa ricerca perché il suo partner è, Ma perché? No, quello no, assolutamente. Noi abbiamo tre meravigliosi ragazzi, abbiamo una bella sessualità. Nella nostra vita è andato tutto bene. Siamo genitori che dice la sessualità. Beata lei. Diciamo la misura standard, così chi torna a casa poi stasera. Tra i 9 e 13. Un attimo i dati, le cifre, i numeri. 9 a riposo, 13 nessuna relazione. Relazione con l'altezza maschile, cioè nessuna relazione col numero di scarpe, nessuna relazione su quanto è alto un uomo, nessuna relazione. Ma io non ho capito una cosa, la larghezza conta o no la larghezza? La larghezza conta per l'attrito, perché comunque il piacere della sessualità femminile è tantissimo, perché si sviluppa attrito, perché comunque è più una questione di calibro, direi, per cui si sviluppa attrito come per raffinamento di calibro, cioè di circonferenza. È quello dico. Calibro 12. Che... il calibro è importante. Si deve sviluppare quell'attrito giusto con le pareti vaginali, per cui e poi dalla stimolazione esterna. È meglio il calibro o la lunghezza? Il calibro per una donna. È meglio il calibro, assolutamente. La lunghezza può essere spiacevole anche per un uomo, perché a volte non ottiene mai penetrazione profonda. Pistole, dai, meglio il calibro. Perché ma è come per le pistole, ha ragione. Va bene, dottoressa, grazie, buona serata, grazie. Grazie mille, alla prossima, dottoressa, grazie. Va bene, andiamo. Gianni da Milano, vai, Gianni. Gianni, forza, vai. Gianfranco Taranto, vai. Salve, buonasera. Io volevo fare una proposta. Ci sono tanti paesini qui al sud Italia che si sono spopolati. Perché non ci si mandano delle famiglie con bambini immigrati in questi paesi? Si rimetterebbe in moto un'economia di questi paesini. Si riaprirebbero le scuole, gli asili. Cioè, non ho capito. Tu immagina, arrivano gli immigrati, li portiamo nei piccoli paesini della Basilicata per ripopolarli. Sì, quelli spopolati, ma ce ne saranno anche in tutto il centro Italia, al sud Italia, al nord Italia, dicevo. Ma non è semplice. Quindi, il problema è governare questa cosa all'origine, non dove li portiamo adesso. Ma non con adesso. Tante famiglie, 5 famiglie, in modo da farli integrare in questi, perché se poi arrivano in migliaia è chiaro che c'è un certo rigetto da parte della gente del posto, però 5-6 famiglie con bambini, secondo me riuscirebbero in qualche anno a integrarsi con queste, con questa gente, magari, torno a ripetere, mettere in moto un'economia. Si chiudono gli asili perché non ci sono bambini, si chiudono il pronto soccorso perché non ci sono. Vabbè, Gianfranco, ciao. Luca L'Aquila, vai, Luca? Sì. Vai, dimmi. Sono qua. Ciao Cruciani, senti, posso aggiungere una cosa a quanto appena detto la professoressa? Dimmi. Allora, in realtà è questa la ricetta giusta. Nel lungo che tocchi, nel largo che turi, ma duro che duri. Vabbè, ma questa è una vecchia cosa, sì. Ma quella... vabbè, però... ma quello funziona. È chiaro, dai, va da sé, non c'è manco bisogno di spiegarlo. Ascoltami, ho una domanda per Parenzo, che è un fine conoscitore di cose israeliane. Vai. Allora, volevo dire, se sa dirmi, in questi anni, in questi ultimi mesi, quanti migranti iracheni, siriani... sono stati accolti dallo Stato di Israele. Ma quanti? Ma c'è un'altra questione lì. Cioè, non può essere paragonata la questione dei siriani e dei libici. Chiusura, una cosa curiosa. No, cosa vuoi dirmi? Mi ha scritto su Twitter il fratello di Carminati. Fratello di Carminati. Perché avevo scritto un tweet stamattina dicendo: leggete le intercettazioni su Mafia Capitale e poi ditemi chi sono i criminali, Rom o Carminati? Punto di domanda. Leroy Merlene e la barbuta 10 milioni. Mi riferivo alle intercettazioni di oggi, in cui vabbè, magari ne parleremo domani. E lui, il fratello di Carminati, mi scrive su Twitter: Parenzo, aspettiamo il processo, ha già condannato mio fratello in base alle intercettazioni. Beh, questo perché non ha, diciamo, di principio, in principio non ha tutti i torti. No, perché te l'ho letto, perché voglio dire, poteva essere... Ma adesso cosa c'entra? Poi anche fare il paragone tra Rom e Carminati, sono due problemi diversi. No, io ho detto, mi dispiace che non abbiamo parlato oggi, perché siccome ho dedicato la mattinata a leggere nel dettaglio... Pensa te. Allora, però, abbiamo la testimonianza della stazione di Roma. Guido Bagatta è passato da lì oggi. Ciao Guido, che è successo? Che hai visto? No, Milano. Ah, Milano, sì. Milano c'è vivi. Vabbè, sei andato a Roma. No, sono tornato da Roma, però è la prima volta che mi sono sentito una merda. Perché? Perché io sono sceso dal treno vestito bene, con gli occhiali da sole, mi sono imbattuto in queste persone. Devo dirti la verità, tu sai come la penso, cioè il fallimento totale del sistema nostro su questo. Sì. Però io mi sono fermato 5 minuti lì e ho visto questi 200-300 persone, intanto sono tutti eritrei, lo capisci dai tratti somatici. Persone disperate, tanti bambini, i vigili urbani di Milano che facevano giocare i bambini. Bravo. Io mi sono sentito un coglione, ma guarda, credimi. Ma perché un coglione? Spiegami. Ma perché sei lì, anche se dai dei soldi, sei impotente per colpa di altri, il fallimento di un sistema clamoroso. Esatto. Clamoroso. Ma infatti quelli non hanno colpe, sono disperati che sono stati portati. Sai che c'erano dei bambini. Ma sai cosa penso di come bisogna fare, no? Bisognerebbe fermarli all'inizio, però il sistema ha fallito, queste persone stanno pagando, sono tutte persone, questi almeno, che scappano, sono perseguitati dal regime eritreo che li massacra, quindi scappano dalla situazione. Io mi sono sentito una merda, guarda, te lo dico, e penso che non bisognerebbe farli entrare dall'inizio, cioè dai barconi e tutto il resto. Però oggi, credimi, ma una merda per come erano bivaccati, per come erano, ma per come ero io. Sono sceso, sono andato alla 7 a Roma, sono tornato vestito bene, col corriere in mano. Vabbè. Credimi. No, ma lo capisco, qualcuno si possa sentire una merda rispetto alla vita che fa, rispetto alle decisioni che prende. Che cosa io non credo come sei, credo come te più o meno. Ma perché io devo scendere un treno vestito così e quello lì, poveretto, che magari è molto più intelligente, deve essere Bagatta, un disastro. Io, guarda, credimi, ha un cuore, Bagatta, ma non è questione di avere un cuore. No, ma ha detto una cosa molto umana, bellissima. Ma d'accordo, va benissimo, è una cosa che ha sentito, e dunque fa bene a dirla e fa bene a divulgarla, che uno si possa sentire una merda perché è vestito bene e pensa magari a cose banali rispetto a tutti. E dico a tutti, senza andare allo zoo, perché non deve essere una cosa per andare a vedere delle cose strane. Passate di lì e capirete quello che dico. Ma questo non vuol dire, accogliamo tutti a cazzo di cane, dai, su. Questo è l'errore di base lì, non vuol dire. Ma no, ma anche tu lo pensi, perché alla fine dici, vabbè, arrivano, chi se ne frega, non si possono fermare. Invece no, si possono fermare, certo, se uno vuole. Si possono fermare, però attenzione che c'è anche questo aspetto. E ma dico, certo, l'aspetto di chi scappa per paura, di chi scappa per le tragedie della guerra, per carità. Bambini, però sono una grandissima minoranza quelli che scappano dalle guerre rispetto agli altri. Poi se uno decide di accogliere quelli che hanno fame, come dice Lutto, ma che allora accogliamo tutti. Dai, ascolta, a domani. Posso 18... chiudere con uno scoop sulla musichetta? Ma 10 secondi. Secondo me da novembre in poi metà di Expo, quello che resta di Expo, diventerà il più grande campo di rifugiati d'Europa, te lo dico io, e vedrai che sarà così. È possibile. A domani 18:30, ciao. Come ha vinto, io me ne vado alle Canarie, vaffanculo, non ci voglio stare più in questa città di merda. E quelli come Parenzo dovrebbero andare tutti in Siberia, e grazie alla gente come questo cretino che c'è a fianco, che l'Italia sta andando sempre di più nella melma. Non ha il diritto a esistere perché è cretino.